Karen Blixen, Tempeste. Capitolo primo. La visione della tempesta. C'era un vecchio attore e capocomico che si chiamava Herr Sørensen. Da giovane aveva recitato nei teatri di Copenaghen. Era arrivato perfino a fare la parte di Aristofane nella tragedia Socrate di Adam Oehlenschläger, sul palcoscenico del Teatro Reale. Ma era un uomo di carattere prepotente e indipendente e pretendeva di creare e controllare il mondo che lo circondava. Da bambino lo avevano portato in Norvegia a vivere coi parenti di sua madre e aveva serbato una profonda, inestinguibile passione per quelle colline rocciose. Nel suo ricordo, esse affioravano imbevute di cielo e spazzate dal vento come un fondale o delle quinte per il Hakon Jarl. E per la Scozia di Macbeth e di Ossian. Aveva letto il poeta norvegese Wergeland e aveva udito parlare dell'aspirazione popolare norvegese alla grande arte e provava in cuor suo tanta inquietudine. Visione e voci si infittivano in lui, gli assegnavano una corona, gli ordinavano di salpare verso il nord. Più avanti, nella vita, si sradicò tutto a un tratto dalla dolce terra di Copenaghen per andarsi a piantare di nuovo in un terreno sassoso e circa un secolo fa, all'epoca in cui i vapori cominciavano a far servizio regolare lungo le coste norvegesi, andava con la propria piccola compagnia di paese in paese, su e giù, per i fiordi. I suoi vecchi amici di Copenaghen discorrevano tra loro del triste declino di un attore del Teatro Reale di Copenaghen, ridotto a prodursi su palcoscenici di provincia con un complesso poco affiatato, davanti a un pubblico quasi barbaro. Ma lo stesso Herr Sørensen gioiva di quella libertà. Tutto il suo essere rifioriva, cullato dal vento e dalle onde. I camerini fatti di tavole rozze, tra correnti d'aria e candele di sego. Nelle serate di gala era apprezzatissimo ambasciatore presso grandi potenze, luccicante di stelle e di favori regali. In altri momenti, gemendo nell'angusta cuccetta, in balia dello spietato mal di mare, era il loro travagliato profeta, Giona nella pancia della balena. Ma sempre e ovunque era l'eletto, il viandante per vocazione. Herr Sørensen aveva per natura una specie di duplicità, capace di confondere e turbare chi gli stava accanto e di apparire addirittura demoniaca, ma con la quale egli era riuscito a convivere in buona armonia. Da un lato era un uomo d'affari, sveglio, scaltro e instancabile, che aveva gli occhi anche dietro al capo e una visione assolutamente concreta e staccata del suo pubblico e dell'umanità in genere. E dall'altro egli era allo stesso tempo l'obbedientissimo servo della propria arte, umile vecchio prete nel tempio, con le parole Domine, non sum dignus, incise nel cuore. Nei suoi contratti non si lasciava portar via neppure un centesimo. Mentre si applicava la maschera di fronte a uno specchio opaco e scheggiato, poteva, tutt'a un tratto, avere un'idea brillante che lo metteva in grado di fare un dispetto al prossimo. Recitava in molte farse plateali, che a suo tempo erano chiamate possen, deliziando il pubblico con tutte le capriole, le risatacce e le fantastiche smorfie che esso poteva desiderare, e ringraziandolo poi dell'assordante applauso con una mano sul cuore e il più soave sorriso sulle labbra, ma sempre aveva ben presenti i bordereaux serali, fin nel minimo particolare. Quando più tardi, dopo essersi goduta una modesta cenetta, conclusa con un bicchierino di gin buttato giù in un solo sorso, saliva in camera da letto con la candela in mano, su per una scaletta ripida e stretta quanto quella di una caponaia, il suo spirito saliva alto quanto un vecchio angelo sulla scala di Giacobbe. E lassù si sedeva nuovamente a tavola con Euripide, Lope de Vega e Molière, coi poeti dell'epoca d'oro del suo paese, e con quello che più di ogni altro aveva l'aspetto di una creatura umana, con William Shakespeare in persona. Gli intelletti immortali gli erano fratelli e lo capivano quanto egli capiva loro. Con loro poteva lasciarsi andare in giubilo e libertà, oppure poteva versare le lacrime del più profondo Weltschmerz. Talvolta Herr Sørensen si rivelava nei rapporti d'affari uno spudorato speculatore, ma nei suoi incontri con gli immortali era casto quanto una vergine. Soltanto alcuni amici intimi conoscevano la sua teoria, secondo la quale tanta indegnità della vita umana potrebbe essere evitata se la gente si abituasse a discorrere in poesia. Non è indispensabile che ci sia la rima, diceva, anzi, non dovrebbe proprio rimare. La rima è alla lunga un subdolo attacco alla vera essenza della poesia. Ma dovremmo esprimere i nostri sentimenti e comunicare col nostro prossimo in versi sciolti, perché i giambi dolcemente temperano l'asprezza della nostra natura, sino a nobile dignità, e zelanti spartiscono futilità, chiacchiere e frange di scandali dall'oro e dall'argento del discorso umano. Lo stesso Herr Sørensen, nei grandi momenti della propria vita, pensava in giambi. Soltanto il registratore generale delle nascite e dei decessi di Copenaghen, che si era mostrato personalmente assai contrario all'idea, sapeva di un codicillo apposto al suo testamento, secondo il quale il suo vecchio cranio sarebbe stato un giorno lucidato e nei tempi futuri avrebbe dovuto figurare sul palcoscenico come il teschio di Yorick. Ma un anno, facendo i conti, Herr Sørensen si accorse che nell'ultima stagione aveva avuto profitti superiori a quelli di tutte le altre. Il vecchio capocomico sentì che le alte potenze di lassù lo avevano degnato di uno sguardo benevolo e che in cambio doveva fare qualcosa per loro. Stabilì di realizzare un sogno della sua vita. Avrebbe rappresentato la Tempesta di Shakespeare e lui stesso avrebbe recitato la parte di Prospero. Appena prese questa decisione, si alzò dal letto, si vestì e andò a fare una lunga passeggiata nella notte. Osservò le stelle che erano lassù e pensò di essere stato condotto a percorrere strane vie. Le ali che ho guardato e desiderato tutta la vita, si disse, mi sono state finalmente accordate perché io le possa ripiegare, grazie a coloro nelle cui mani sono stato e sono. Capitolo secondo, una parte assegnata. Vegliò per molte notti, spostando maschi e femmine qua e là nella distribuzione dei personaggi della commedia come pedine di uno scelto gioco di scacchi. Alla fine, salvo per un personaggio, aveva tutta la distribuzione in pugno e ne era soddisfatto, ma non aveva ancora trovato un ariele. E si strappava i capelli, disperato per questa sua incapacità. Mentalmente aveva già assegnato quella parte a questo o a quello dei suoi migliori attori e, esasperato, gliel'aveva ristrappata, ma un giorno lo sguardo gli cadde su una ragazza che era entrata da poco a far parte della sua compagnia e che in una particina o due s'era meritata qualche modesto applauso. «Signore e giudice!» gridò immediatamente Herr Sørensen in cuor suo. «Dove avevo gli occhi?» In ginocchio stavo ad implorare il cielo perché mi mandasse un servizievole spiritello. Sono stato sul punto di perdere ogni speranza e di rinunciare a tutto. E intanto il più delizioso ariele che il mondo abbia mai veduto mi passeggiava avanti e indietro sotto al naso, senza che lo riconoscessi. Tanto se ne commosse che trascurò il sesso della sua allieva. Ragazza mia, disse alla giovane attrice, sarai ariele nella tempesta. Io? Ella gridò. Sì, disse Herr Sørensen. La ragazza alla quale gli aveva parlato era alta, con due occhi chiari e fermi, ma aveva nei suoi modi uno strano e dignitoso riserbo. Herr Sørensen, che per quanto riguardava la moralità delle sue giovani attrici era rimasto fedele alle alte tradizioni del Teatro Reale di Copenaghen, l'aveva osservata incidentalmente solo perché sembrava difficilmente avvicinabile. Era una bella ragazza e per una natura cavalleresca come quella di Herr Sørensen aveva nel volto qualcosa di commovente o patetico. Eppure nessun uomo di teatro, salvo quello con l'occhio del genio, avrebbe mai potuto immaginarla nella parte di Ariele. È un po' macilenta, pensò Herr Sørensen, perché ha dovuto vivere con magri proventi, povera figliola, ma le dona perché la struttura del suo scheletro è eccezionalmente nobile. Se è vero, come sosteneva il mio direttore di Copenaghen di beata memoria, che la donna è di fronte all'uomo ciò che la poesia è di fronte alla prosa, le donne che incontriamo nella nostra vita quotidiana sono poesie lette ad alta voce. Se lette ad alta voce con gusto, son grate all'udito, se lette male, son stridule e stonate. Ma questa mia pollastrina dagli occhi grigi è tutta un canto. Ascoltami, piccolina, disse, accendendosi un grosso sigaro, unico lusso che gli si concedeva. Ora noi due ci mettiamo al lavoro sul serio. Siamo qui per servire William Shakespeare, il cigno di Avon. E non penseremo affatto a noi stessi, perché in noi stessi non siamo niente. Sei disposta a dimenticare ogni cosa per amor suo? La ragazza ci pensò sopra, poi arrossì e disse. Se non sono troppo grande? Herr Sørensen la guardò da capo a piedi per osservarla bene e poi, per essere sicuro, le girò intorno. Al diavolo chilogrammi e libbre, esclamò. Au contraire, vorrei che fossi più piena perché in te stessa sei leggera come un palloncino. Più lo si gonfia e più va in alto. E poi il nostro Guglielmo è certamente tanto virile da non tener conto di una banale regola come quella della legge di gravità. Guarda me. Sono un uomo piccolo quando mi aggiro nell'uggia della mia giornata, ma credi che quando avrò indossato il mantello di Prospero avrò lo stesso aspetto? Anzi, il pericolo sarà che la scena appaia troppo meschina per la mia statura e che gli altri miei attori stentino a entrarci. E quando mi ordinerò degli abiti nuovi, e Dio sa quanto ne ho bisogno, il sarto che è stato a sedere in platea alzerà i prezzi perché penserà di dover adoperare più stoffa a causa del mio volume. So bene. Proseguì dopo una lunga pausa e con gran fervore, che anche tra i capocomici si può trovare chi ha il cuore e i mezzi per far piombare Ariele sulla scena su un fil di ferro teso nelle quinte. Sistema maledetto. Per me certe cose sono un abominio. Ariele deve volare sulle parole del poeta. Possiamo noi, che siamo i servitori di Guglielmo, credere più a un filo d'acciaio che alle sue strofe celesti? In questo teatro certe cose accadranno soltanto sul cadavere di Valdemar Sørensen. Sei un po' lenta nei movimenti, proseguì. Così ha da essere. Ariele non deve essere rapido né frettoloso. E quando risponderà a Prospero, divoro l'aria che ho davanti e torno prima che il polso ti batta due volte. Il pubblico lo crederà. Certo. Lo crederà, ma per Giove non sarà perché pensano, sì, può darsi che ce la faccia a forza di dar spintoni qua e là. No, non debbono dubitarlo nemmeno per una frazione di secondo, perché in quell'istante debbono sentirsi fremere il cuore di felicità e gridare, oh, che stregoneria. Anzi, ti voglio dire una cosa, ragazza, riprese. Un momento dopo, Herr Sørensen, per riepilogare la sua favola, irresistibilmente trascinato dalla propria fantasia. Se immaginassi, perché si può immaginare qualsiasi cosa, che per una volta una ragazza è venuta al mondo con un paio di ali dietro le spalle e adesso è da me a supplicarmi di assegnarle una parte in una commedia, le risponderei: nelle opere dei poeti c'è una parte per ogni figlio dell'uomo, ergo. Ce n'è una anche per te. Infatti si può trovare più di una protagonista del genere di commedie che dobbiamo rappresentare oggi e alle quali gioverebbe perdere un po' del suo peso. Il Signore sia con te. Puoi fare una di quelle parti, ma non puoi fare Ariele perché hai già le ali alle spalle e perché nella realtà assoluta e senza alcuna poesia sei già capace di volare. Capitolo 3. La figlia dell'amore. La ragazza che doveva fare la parte di Ariele sapeva in cuor suo già da qualche tempo che sarebbe divenuta un'attrice. Sua madre faceva la modista in un paesino del fiordo e la figlia le sedeva accanto e sentiva, come in una vertigine, che la piena del suo cuore era come la piena dell'acqua. Talvolta pensava che ne sarebbe morta, ma non sapeva scandagliare il cuore meglio del mare. Raccoglieva il ditale e le forbici e aveva il visetto pallido. Suo padre era stato un capitano di mare scozzese, un certo Alexander Ross, la cui nave 20 anni prima si era avariata in rotta per Riga e aveva dovuto stare ferma tutta l'estate in quel porticciolo. Durante quei mesi estivi, il bell'omone, che aveva navigato attorno al mondo e partecipato a una spedizione antartica, aveva provocato molto movimento e una certa inquietudine tra gli abitanti della città. Aveva poi, con fretta e decisione, come sempre nella sua vita, amato e sposato una delle più belle ragazze della città, la figliola 17enne d'un impiegato del Dazio. La fanciulla s'era difesa con soave turbamento ed imbarazzo, ma tuttavia era diventata Madame Ross prima di aver capito che cosa le fosse capitato. «È il mare che m'ha portato da te, cuoricino mio!» Egli le aveva sussurrato nel suo strano, incerto e adorabile norvegese. «Dove si ferma l'onda, si ferma il cuore!» Verso la fine dell'estate, la nave del capitano fu pronta per salpare. Allora egli abbracciò e baciò la giovane sposa, posò un mucchietto di monete d'oro sul suo tavolino da lavoro e le promise di tornare prima di Natale per condurla con sé in Scozia. Ella rimase sul molo, avvolta nel bello scialle delle Indie orientali che egli le aveva regalato, e lo vide salpare. Era stato tutt'uno con lei, ora era tutt'uno con la sua nave. Da quel giorno nessuno vide o udì mai più qualcosa di lui. In primavera, la giovane sposa, dopo la lunga e terribile attesa dei mesi invernali, si rese conto che la nave era andata a fondo e che ella era diventata vedova. Ma gli abitanti della città cominciarono a chiacchierare. Il capitano Ross non aveva mai avuto intenzione di tornare. Qualche tempo dopo si disse che già aveva una moglie in patria, in Scozia. Qualcuno del suo equipaggio vi aveva fatto cenno. In città c'era chi biasimava la fanciulla che aveva avuto tanta fretta di buttarsi nelle braccia del capitano straniero. Altri provavano compassione per la ragazza norvegese abbandonata e avrebbero voluto aiutarla e consolarla, ma nel loro aiuto e nel loro conforto c'era qualcosa che la urtava e che ella non voleva né poteva tollerare. Anche prima che le nascesse il bambino, si servì del denaro che l'innamorato le aveva lasciato per mettere su un negozietto di modisteria. Mise da parte una sola sterlina perché il suo bambino doveva poter possedere un oggetto d'oro purissimo lasciatogli dal padre. Da allora si tenne alla larga dalla propria famiglia e dalle vecchie conoscenze della città. Non aveva niente contro di loro, ma non le avrebbero lasciato il tempo di pensare ad Alexander Ross. Quando attorno al fiordo cominciò a spuntare il primo verde, ella dette alla luce una figlia che negli anni futuri l'avrebbe, pensava, aiutata nel suo lavoro. Madame Ross aveva fatto battezzare sua figlia col nome di Mally perché suo marito cantava una canzone a proposito di una ragazza scozzese che si chiamava così ed era perfetta in tutto e per tutto. Ma, diceva alle clienti che guardavano la bimba distesa nella culla in negozio, che quello era un nome di famiglia, comune tra i parenti del marito, e che la madre di lui si era chiamata Mally. Alla fine ci credette anche lei. Durante i mesi in cui l'aveva atteso con ansia sempre crescente, e alla fine, date le circostanze nel buio più profondo, la nascitura era stata per lei una prova sicura che suo marito era vivo. Cresceva e le dava calci in grembo, non poteva essere figlia d'un morto. Ma ora che le erano giunte quelle voci sul marito, la bambina cominciò a diventare una prova altrettanto sicura che egli era morto. Perché una creatura così sana, bella e graziosa non poteva essere il dono lasciatole da un imbroglione. Via via che cresceva, Mally si rendeva conto, senza che sua madre glielo avesse mai dimostrato con le parole o avesse mai saputo esprimerglielo altrimenti, quale potente, mistica e allo stesso tempo tragica e beata importanza aveva, per la graziosa e solitaria sua mamma, il solo fatto che lei esistesse. E perciò le due vissero insieme, meravigliosamente serene e isolate, tanto, tanto felici. Quando si fece più grande ed ebbe ogni tanto occasione di trovarsi tra la gente, la ragazza udì spesso parlare di suo padre. Era sveglia, aveva l'orecchio fine per le intonazioni e i silenzi, e dunque non tardò a capire che aria tirava in città attorno al nome del capitano Ross. Nessuno seppe mai che cosa ne pensasse lei, ma prese le parti della madre contro tutti con un'energia sempre crescente. Montava la guardia a Madame Ross come una sentinella armata e si fece saggia fin troppo. E posata in ogni sua azione, senza che ciò fosse ben chiaro neppure a lei stessa, stabilì nel suo giovane cuore che mai la condotta della figlia avrebbe offerto alla gente una conferma dell'opinione secondo la quale la madre si era lasciata sedurre da un tipaccio. Ma quando era sola, le Mally si abbandonava felice al pensiero del padre, suo genitore, grande e bello. Per lei poteva pur essere un avventuriero, un capitano di ventura, uno di quelli di cui sentiva parlare in tempo di guerra, anzi addirittura un corsaro, un pirata. Sotto i suoi modi pacati si nascondeva arroganza e vitale giocondità, e nel suo disprezzo per la gente della cittadina c'era una buona dose di indulgenza nei confronti di sua madre. Lei stessa e Alexander Ross la sapevano più lunga di tutti. Madame Ross era orgogliosa della sua bambina obbediente e pensosa, e agli occhi della cittadina diventò quasi ridicola nella sua vanità di madre. Fece insegnare l'inglese a Mally da una vecchia zitella che era rimasta a vivere nella città del fiordo, dove era venuta una generazione addietro, come governante delle figliole del barone Löwenskild. Mally imparò la lingua di suo padre nella stanzetta che l'inglese grinzosa, col naso a becco, abitava sopra una drogheria. E lassù avvenne un incontro fatale per la ragazza. Un giorno lesse anche Shakespeare. Con voce tremante e con le lacrime agli occhi, la zitella leggeva il suo bardo alla giovinetta, l'esule affermava il suo lignaggio e la sua ricchezza e, con maestosa dignità, introduceva la figlia della modista nel cerchio dei suoi nobili e vivaci compatrioti. Da allora Mally vide il proprio eroe, Alexander Ross, come un eroe shakespeariano. In cuor suo gridava con Filippo Falconbridge: «Signora, non vorrei avere padre migliore. Vi sono peccati che in terra sono come benedizioni, e tale fu il vostro». Mally, da bambina, era alta per la sua età, ma tardò a svilupparsi come donna. Anche a 16 anni, quando fu cresimata, sembrava un ragazzo allampanato. Quando crebbe diventò bellissima. Non v'è essere umano che abbia un'esperienza più ricca di quella di una ragazza goffa e bruttina che in pochi mesi si trasforma in una bellissima fanciulla. È insieme una splendida sorpresa e una speranza coronata, un favore e una ben meritata promozione. La nave era stata bloccata dalla bonaccia o agitata da correnti tempestose. Ora le sue vele bianche sono gonfie ed essa salpa verso il mare aperto. La sua velocità tien dritta la chiglia. Mally seguiva, audace e sicura, la sua rotta possente in alto mare, come se il capitano Ross in persona fosse al timone. I giovanotti si voltavano a guardarla in strada, e ve ne erano alcuni quali immaginavano che la sua situazione eccezionale avrebbe fatto di lei una preda facile, ma in questo sbagliavano. La fanciulla poteva ben consentire ad essere la figlia d'un corsaro, ma per nessun motivo avrebbe consentito ad essere il bottino d'un corsaro. Da bambina era stata di cuor tenero, da ragazza era spietata. «No», diceva a se stessa, «saranno loro le mie vittime». Tuttavia, quell'insolita ammirazione, la nuova difesa e offesa, tolsero pace ai primi anni della sua gioventù, e ora che si scrive e si legge la storia di Mally, si è liberi di pensare che se avesse avuto uno svolgimento più lungo, ella sarebbe diventata ciò che i francesi chiamano une lionne, una leonessa. Nella storia stessa, ella non è che un leoncino, un po' impacciata nei movimenti e fino all'ultimo capitolo incerta nel valutare la propria forza. Capitolo 4. Madame Ross. A questo punto, una sera, nel teatrino del paese, Mally vide una rappresentazione della compagnia di Herr Sørensen. Tutto lo slancio e il desiderio che per anni ella aveva dovuto dominare in se stessa sbocciarono in perfetta maturità e felicità, proprio come se una freccia divina l'avesse colpita in pieno cuore. Prima che la rappresentazione fosse finita, ella aveva maturato una decisione irrevocabile. Sarebbe diventata attrice. Mentre tornava a casa dal teatro, vedeva la strada che si sollevava e ondeggiava sotto e attorno a lei. Nella sua stanzetta tirò giù i libri e la stanza diventò una notte stellata su Verona e una cripta in quella città. Si fece verdeggiante e si colmò soavemente del canto e della musica della foresta delle Ardenne, e ancor qui le onde del profondo Mediterraneo rotolarono azzurre attorno a Cipro. Poco dopo, in segreto, col cuore che le tremava, come se stesse affrontando il giorno del giudizio, si diresse verso l'alberghetto in cui si era stabilito Herr Sørensen. Fu ammessa alla sua presenza e gli recitò alcune delle parti che aveva imparato da sola. Herr Sørensen l'ascoltò, la guardò, la riguardò e si disse: «Qui c'è stoffa». Ce n'era tanta che non lasciò andar via la ragazza, ma la assunse in prova per 3 mesi. «Lasciamo», pensò, «che maturi non vista nell'atmosfera del palcoscenico e poi decideremo». Malli poté allora rivelare la sua decisione alla madre e i vicini ne ebbero notizia, anche troppo presto. Per quella gente di paese la vita e la vocazione di un'attrice erano cose d'un altro mondo, in se stesse ambigue. Inoltre, la sua particolare situazione provocò a Malli aspri giudizi e scherni. Ma la ragazza era così sicura di sé che, mentre fino ad allora era sempre stata perfettamente consapevole di ciò che la città pensava e diceva, e ne aveva tenuto conto, ora lo trascurava totalmente o non se ne preoccupava affatto. Fu sinceramente sorpresa per lo sgomento provato da sua madre il giorno in cui ella le espose il suo progetto. Madame Ross non aveva mai avuto bisogno di frenare la natura di sua figlia e non aveva nulla della comune autorità di una madre. Nel suo attuale conflitto con la figlia sembrò sconvolta dall'orrore e dal dolore, mentre dal suo canto Malli era assolutamente inflessibile. Ne nacquero due scenate violente tra madre e figlia, e sarebbe potuta finire in modo tale che o l'una o l'altra si gettasse nel fiordo. In quella circostanza Malli fu sorretta di dove meno aveva previsto, le divenne alleato il morto o scomparso genitore. Madame Ross aveva amato il suo uomo e aveva creduto in lui senza averlo mai capito. Ora, sia per castigo sia per premio, doveva per tutta l'eternità amare ciò che non capiva e crederci. Se il traguardo di Malli fosse stato a portata della sua comprensione, avrebbe trovato il mezzo di combatterlo, ma di fronte a quella pazzia cieca e selvaggia, non sentiva più la terra sotto i piedi, era ebbra di dolci e strani ricordi e di associazioni di idee. Durante gli anni in cui aveva lottato contro l'ossessione di sua figlia, aveva inspiegabilmente rivissuto il tempo del suo breve matrimonio. Da un giorno all'altro riviveva le stesse sorprese e gli stessi turbamenti. Un potere estraneo, ricco ed estasiante, che già l'aveva rapita come una tempesta, la saliva nuovamente da ogni lato. I modi di Malli si facevano insinuanti e ammalianti come quelli del suo innamorato di 20 anni prima. Madame Ross ricordò che Alexander, il capitano di mare, tanto forte e bello, si era inginocchiato davanti a lei e, guardandola dal basso, le aveva sussurrato: «No, lasciami stare qui, non c'è luogo più adatto di questo». Si innamorò di sua figlia come una volta si era innamorata del padre e dimenticò che gli anni erano passati e che i capelli col passar del tempo le si erano fatti grigi. Arrossì e si sbiancò in presenza di Malli e tremò quando la ragazza la lasciò. Sentiva che la propria volontà era impotente davanti allo sguardo e alla voce della sua bimba. E in quell'impotenza v'era una sognante, risorta felicità. Quando alla fine, in un colloquio burrascoso e pieno di lacrime, dette alla ragazza la sua benedizione, fu come se ella si fosse sposata di nuovo. Da allora in poi divenne insensibile al dolore e all'apprensione che la cittadina pretendeva da lei. Il giorno in cui Malli andò via con la compagnia di Herr Sørensen, madre e figlia si separarono in piena, affettuosa intesa. Capitolo 5. Maestro e allieva. Malli imparò a mente la parte di Ariele e Herr Sørensen si addossò il compito di perfezionarla in quell'impresa. Egli non la lasciava in pace né giorno né notte, la rimproverava e imprecava con ispirata crudeltà, scherniva l'espressione del suo viso e la sua intonazione, a forza di pizzicotti le coloriva di nero e viola le esili braccia, e un giorno arrivò perfino a darle dei sonori ceffoni. Gli altri membri della compagnia, che avevano assistito stupefatti all'improvvisa promozione della pudica ragazzina e avrebbero ben potuto essere gelosi di lei, ne ebbero invece pietà. La prima donna della compagnia, Mademoiselle Hélène, una bellezza dai lunghi capelli neri, che avrebbe fatto la parte di Miranda, s'azzardò una volta o due a protestare con il direttore a proposito di Malli. Il jeune premier, un giovanotto biondo dalle belle gambe, aspettava umilmente nelle quinte per confortare la novizia che usciva barcollando dal palcoscenico dopo una prova. Se nonostante questo, in palcoscenico e fuori non s'azzardavano ad avvicinare la vittima di Herr Sørensen, e anche tra loro ne parlavano il meno possibile, non era per ostilità, erano perplessi di fronte a ciò che accadeva sotto i loro occhi, come coloro che seguono la crescita di un albero giovane sotto l'incantesimo di un fachiro. Un simile rapporto può destare ammirazione o disagio, ma sventa ogni discussione o condanna. Herr Sørensen, invece, era più felice ad ogni lezione e Malli capiva che egli si irritava per il suo bene e che tutto ciò era amore. Accadeva perfino che dopo una battuta di lei il vecchio attore interrompesse d'un tratto la sua ciclopica sfuriata per guardare duro e inquisitore la sua allieva. «Ripeti», le diceva, supplicandola affettuosamente ed umilmente. Quando Malli ripeté: «V'ho fatto infuriare, ma proprio perché son tanto temerari, gli uomini si impiccano e si annegano da soli». Herr Sørensen rimase per un momento immobile, come chi stenti a credere ai propri occhi e ai propri orecchi. Alla fine trasse un profondo respiro e trovò sollievo in una delle stesse battute di Prospero. «Bene, hai recitato la parte di quell'arpia, o mio Ariele». La guardò ammiccando e andò avanti con la lezione. Talvolta poi, per orgoglio e gioie esuberanti, le dava alcune piccole paterne sculacciate e poi, più per se stesso che per lei, dava sfogo alle sue teorie sulla bellezza femminile. «Quante donne, diceva, hanno la coda dove dovrebbero averla? In alcune di esse, Dio le aiuti, la coda scende fino alle calcagna. Tu, anatroccola», soggiunse gaiamente col sigaro in bocca, «sei lunga di gambe. I piedini non ti tirano in giù, anzi, le tue gambe sono colonne, nobili e diritte, che orgogliosamente portano, dove cammini o resti ferma, tutta la tua graziosa personcina verso il cielo». Un giorno si batté le mani sul capo ed esplose: «E io che volevo veder sgambettare una ragazza come quella in pantofoline francesi di seta. Cretino, cretino che sono stato a non sapere che solo gli stivali delle 7 leghe si addicono quelle gambe».